guardi un po' la palla, aspetta, e la devia, anche se la palla è la devia se la pagliasse, e lì che la pagliava prima perché la ingaccia, e vai che te sono io, a più parti, ti sento, seguito parti, ti sento, pronto io, sentito, adesso mi sentito, ma se vai che la tenga, non ritende fuori, e la ingaccia, e pulare questa gavetta. Ma io mi avvio a porta. Sì. Cioè, anche la preghiera è sparito. Non sono stato giù. Allora, ecco Daniele. Mai compi la volta Daniele, che ha fatto il dolcino, non so. Esatto, quello come fai tu, venendo a casa, siccome le normande che le celeste. Non pervenuti dormono. Sì, dormili. Sì. Si ricarica per stasera, che dice Daniele. Cazzo, sempre più uscita. Ma che è il portato, il tonton? Marierni? Sì. Sì, che però dopo siamo una deviazione perché bisogna fare la spesa a cabra, sa? Sì, ma il tonton, a me da mia Marierni, segreto messo, cabra, scusa. Mico messo sul telefonino Marierni, il meglio che dà. Però metti cabra, tanto sei uguale, sei lì, eh? Oh, vabbè. Daniele dice di andare fuori a un ristano dopo e andare in cerca di una Lidl a un euro spin perché in altri sono a farsi la spesa alla Lidl, l'altro dico, mi impinare un carrello con 100 euro. Ben, fate come volete. Sì, sì, fermo così, ta. Esatto. Perché c'è un tanto che ti a casa. Sì, l'ho venuto che l'anno scorso, se ti ricordi. Hola, hola.